Or su, spicciati presto, cosa vuoi? L'affare di cui si tratta è importante. Lo credo. È importantissimo. Meglio ancora, finiscila. Giurate di non andare in collera. Lo giuro sul mio onore, pur che non parli del commendatore. Siamo soli. Lo vedo. Nessun ci sente. Via. Vi posso dire tutto liberamente. Sì. Dunque, quando è così, caro signor Parrone, la vita che menate è da briccone! Temerario in tal guisa! E il giuramento! Non si parli di giuramento, dati occhio! Oh, non parlo più, non fiato, padron mio! Così saremo amici! Ora di un poco, sai tu perché son qui? Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista! Io lo devo saper per porla in lista. E va là che sei il grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che mama, la vidi, le parlai. Meco al casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentir odor di femmina. Aspetto, che odorato perfetto! All'aria mi par bella! E che occhio dico! Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno! Ha prese fuoco!